Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Margherita Giacchi e Andrea Perini. In questa puntata parleremo del piano povertà e del fondo per la non autosufficienza, della ripresa delle lezioni senza mascherine e senza didattica a distanza e degli appuntamenti istituzionali dei consiglieri regionali. Ma intanto, a proposito di istituzioni, in occasione della giornata per l'eliminazione del cancro alla cervice uterina, la torre della regione si è illuminata di verde, un gesto simbolico con cui l'Assemblea ha voluto sensibilizzare sui rischi e sulle forme di prevenzione di uno dei tumori più diffusi fra le donne. Sentiamo cosa ci ha detto la vicepresidente Silvia Zamboni su questa iniziativa. La prevenzione è sicuramente la chiave per cercare di non ammalarsi. È chiaro che ci sono anche delle malattie di origine genetica, però vivere facendo una vita sana, in un ambiente sano, è la parte, diciamo, preponderante di un'autodifesa dai tumori. La diagnostica comunque precoce è fondamentale, bisogna dire che la Regione Emilia-Romagna la pratica da tantissimi anni e lo fa anche nel caso del tumore alla cervice uterina, per cui invitiamo tutte le donne che sono nell'età di sottoporsi a questi esami ad accettare gli appuntamenti. Passiamo alla Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali, che ha approvato il piano regionale per il contrasto alle povertà per il 2022-2024. Le persone per le quali è stato riconosciuto il profilo di fragilità sono state circa 58.000. Di queste, il 57% è donna, oltre il 47% appartiene ad una fascia di età tra i 35 e i 54 anni, il 67% è di cittadinanza italiana e il 25% vive da solo. Sentiamo la consigliera del PD, Francesca Maletti. Il piano triennale delle povertà garantisce ai cittadini dell'Emilia Romagna che si trovano in difficoltà economiche un reddito. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire dare loro la possibilità di poter pagare le utenze, di poter mangiare, di poter avere una vita dignitosa. E da quest'anno viene accompagnato anche AGOL, che è una misura prevista dal PNRR e che a tutte le persone che sono destinatarie di questi contributi gli verranno proposte delle misure di politiche attive sul lavoro, proprio per incentivare queste persone verso l'autonomia e per valorizzare le loro capacità. Passando ai dati sulla povertà familiare, la spesa per consumi registrata nel 2020 dalle famiglie vede l'Emilia Romagna con una media di 2.650 euro. Ma questa spesa rispetto al 2019 è calata dell'8,9%, pari a 260 euro. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, le richieste ad oggi sono arrivate a 39.000, per un importo mensile medio di 494 euro. Sentiamo il consigliere della Lega, Daniele Marchetti, e il consigliere di Fratelli d'Italia, Luca Cuoghi. Pur riconoscendo l'importanza del tema, il piano stesso si basa su un'impronta ideologica, ovviamente sul reddito di solidarietà regionale visto in passato, che per il 40% destinava le risorse economiche stanziate a cittadini stranieri, una visione che noi non condividiamo assolutamente e che credo meriti una sua revisione. Noi crediamo che questo fondo di contrasto alla povertà sia un provvedimento necessario, ha però un difetto: noi non possiamo definire un piano sulla base di qualcosa che non verrà protratto così com'è. Mi riferisco in particolare a quelli che sono gli effetti del reddito di cittadinanza, che verrà ampiamente rivisto. La Commissione Politiche per la Salute e sociali ha dato il via libera anche al finanziamento del Fondo Sociale per la Non Autosufficienza per il 2022, uno stanziamento che vale più di 457 milioni. A questi fondi vanno poi aggiunte le risorse statali, che dovrebbero superare i 60 milioni di euro. Altri 5,9 milioni di risorse regionali sono state poi assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto Dopo di Noi. Nella delibera di giunta anche una novità, un adeguamento tariffario per le strutture accreditate. Ma sentiamo su questo Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa. Il Fondo Regionale Non Autosufficienza per quest'anno anche raccoglie una serie di sollecitazioni che arrivavano dai gestori delle residenze, dei centri diurni che stanno affrontando la durissima crisi energetica e l'aumento dei costi energetici, per cui vengono riconosciute, questa delibera ne prende atto e dà corso definitivamente, vengono riconosciuti 3 euro al giorno per persona per posto accreditato e dando quindi corso a quello che avevamo già indicato a settembre. E sempre sul Fondo Sociale per la Non Autosufficienza è intervenuta Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Penso che ancora oggi manchi un'attenzione seria su quelle che sono le ricadute sociali rispetto appunto al tema dell'aumento dei costi energetici. Quello che io vedo è che la Regione si sta muovendo su alcuni piani, però in maniera frammentata. Penso che la Regione possa in qualche modo agire in maniera congiunta per essere anche più efficace, e ricordo che il tema sociale non è un tema secondario rispetto all'aumento appunto dei costi energetici. Sui residui del Fondo regionale per la non autosufficienza si è concentrato il consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi. Nell'interrogazione il consigliere ha chiesto le motivazioni che hanno spinto la Giunta ad aumentare le tariffe dei servizi sociali per assorbire gli aumenti dei costi dell'energia. Sentiamolo. Il Fondo per la non autosufficienza deve servire per l'aiuto alle persone. È stato un po' un artificio contabile che ha consentito di trasferire fondi sul capitolo energia anziché spostandolo dall'aiuto alle persone. L'altra cosa che ho contestato con questa interrogazione è il fatto che la decisione è stata presa ad inizio settembre, quindi va rivisto il sistema di distribuzione dei fondi, perché chi è sul territorio fatica un po' a pianificare le attività dell'anno in corso quando siamo praticamente a fine anno. Passiamo alla Commissione Cultura e Scuola. A pochi mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ripartito senza mascherine e senza obbligo di lezione a distanza, l'assessore all'istruzione Paola Salomoni ha presentato la sua informativa. Tra i dati presentati emerge che aumentano di circa il 30% le borse di studio e i buoni libri per aiutare le famiglie in difficoltà. Sono previsti bonus per i redditi con una soglia ISEE di riferimento fissata a 24.000 euro rispetto ai 23.000 dell'anno scorso. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, si punta a una programmazione di finanziamenti anche grazie al PNRR, ma soprattutto aumentano di 1.290 gli insegnanti di sostegno, perché tra gli obiettivi principali che la Regione si è data c'è quello di dare più garanzie anche agli alunni fragili. Sentiamo la Presidente della Commissione, Francesca Marchetti. È emerso un importante elemento, che è quello dell'aumento degli alunni con disabilità, e quindi dell'importanza di mettere in campo un'alleanza istituzionale per dare tutte le risposte ai bisogni dei bambini con più fragilità, ma soprattutto anche la necessità di fare una riflessione più complessiva e che vede quindi anche nuovi bisogni e nuovi strumenti che dobbiamo fornire alla scuola e che non possono riguardare solo le risorse che gli enti locali possono mettere a disposizione. Sull'assistenza ai bambini disabili e alle loro famiglie interviene anche Valentina Stragliati della Lega. Riteniamo che sia doveroso garantire a questi bambini la migliore assistenza possibile. Non è accettabile che una famiglia che iscrive il proprio figlio con una disabilità neuromotoria presso una scuola paritaria debba compartecipare con una cifra di 850 euro al mese per 25 ore di assistenza settimanali. Quindi chiediamo un impegno forte da parte della Regione per supportare sia gli enti locali che le famiglie. Altro aspetto riguarda il supporto a tutti i comuni del territorio, risolvendo anche le criticità delle zone di montagna. Ecco le parole di Stefania Bondavalli della lista Bonaccini. Vogliamo evidenziare l'impegno sulla sperimentazione delle multiclassi in montagna, un impegno che va consolidato anche rispetto al calo demografico. Bene l'impegno della Regione a finanziare il 100% delle borse di studio agli aventi diritto, con una particolare attenzione agli studenti fragili e con disabilità. Ottima la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per quello che riguarda gli organici. Parliamo ancora di studenti e scuola. Nei giorni scorsi in Viale Aldo Moro si è svolta l'assemblea dei ragazzi e delle ragazze. I giovani si sono riuniti proprio nell'aula dove si svolgono le sedute del Consiglio regionale e hanno presentato le loro proposte alla Garante per l'Infanzia Claudia Giudici, alla Presidente dell'Assemblea Emma Petitti e ai consiglieri e membri dell'Ufficio di Presidenza. Passiamo ad un altro argomento. Ricordiamo che il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e l'Assemblea la celebra con una mostra dedicata alle donne iraniane, intitolata Come l'acqua, le donne invisibili dell'Iran. In Viale Aldo Moro si è fatto il punto anche sui centri antiviolenza. Sentiamo la Presidente dell'Assemblea, Emma Petitti. L'occasione per fare il punto sulla rete di protezione e prevenzione della nostra regione e anche la volontà di rafforzare questa rete con azioni, progetti, finanziamenti che questa regione mette a disposizione attraverso i propri bandi. Assemblea On Air termina qui, ma potete rimanere sempre aggiornati sui nostri profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air.